Componimento 33esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Già fiammeggiava l'amorosa stella per l'Oriente e l'altra che Giunone, suol far gelosa nel settentrione, rotava i raggi suoi lucente e bella. Levata era a filar la vecchiarella, discinta e scalza, ed esto avea il carbone, e gli amanti pungea quella stagione che per usanza a lagrimar gli appella. Quando mia speme, già condutta al verde, giunse nel cor, non per l'usata via, che il sonno tenea chiusa e il dolor molle, quanto cangiata, oimè, da quel di pria. E paria dir, perché tuo valor perde? Veder quest'occhi ancor non ti si tolle. Fine del componimento.